Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che si occupa di attualità, filosofia, cultura, gastronomia, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani e le loro relazioni con il resto degli esseri viventi, a cominciare da noi stessi, la specie umana. È la puntata numero 549 e ci occuperemo di Covid-19 e delle sue cause, di libri da portare con sé in montagna o sotto l'ombrellone, di mari, oceani e cambiamenti climatici. Da mesi ormai conviviamo con l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da coronavirus e abbiamo avuto spesso l'occasione, con la nostra trasmissione, di riflettere sulle cause dell'epidemia, cioè sulle zoonosi, i passaggi dei virus dagli animali agli umani. Ne abbiamo discusso, abbiamo studiato, abbiamo riferito delle più recenti acquisizioni scientifiche, ma è un dato di fatto che nell'ultimo periodo, nella cosiddetta fase 2, successiva al confinamento domestico, di tutto nell'opinione pubblica si parla, meno che di questo. L'obiettivo è far ripartire l'economia, tornare a produrre e consumare come più di prima, e tutto il resto sembra dimenticato, come se il Covid-19 fosse un incidente di percorso da mettere quanto prima in archivio. Per fortuna c'è ancora qualcuno che prova a riportarci alla realtà, a ricordarci che occorre agire per prevenire future zoonosi e relative pandemie, altrimenti l'emergenza sanitaria, il confinamento e i contagi saranno una realtà permanente, un incubo costante per le nostre vite. Il rapporto Prevenire la prossima pandemia, curato dal Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite, in sigla UNEP, e dall'Istituto Internazionale di Ricerca Zootecnica, appena pubblicato, offre osservazioni e indicazioni molto chiare. Il rapporto indica 7 fattori umani all'origine delle zoonosi, e almeno 3 di questi hanno a che fare con la relazione corrente fra la specie umana e gli altri animali. Il primo fattore è la crescente domanda di proteine animali per l'alimentazione, un fenomeno sempre più preoccupante viste le tendenze in atto. Nei paesi ricchi, si legge nel rapporto, i consumi pro capite di proteine animali non hanno subito variazioni significative negli ultimi decenni, nonostante l'aumento di vegetariani e vegani, mentre le nazioni a basso e medio reddito, oltre che un significativo aumento della popolazione, negli ultimi 50 anni hanno registrato un'elevata crescita della produzione di carne, più 260%, latte, più 90%, uova, più 340%, e si prevede che questa tendenza continuerà. Il secondo fattore, strettamente legato al primo, è l'espansione della zootecnia. Le condizioni di vita, anzi di non vita, degli animali negli allevamenti favoriscono la diffusione e la trasmissione dei virus. E d'altra parte, senza allevamenti intensivi, non sarebbero possibili simili consumi di carni. Il terzo fattore è il crescente sfruttamento della fauna selvatica, legato al disboscamento, alla distruzione degli habitat naturali. Sono 3 fattori indicativi di un rapporto malato fra esseri viventi. All'attitudine della specie umana a concepirsi come dominatrice si somma la convinzione nelle società industriali che non vi siano limiti sostanziali alla crescita dei consumi e dell'estrazione di risorse dalla natura e dagli altri esseri viventi. Gli altri fattori indicati dal rapporto sono l'uso insostenibile delle risorse naturali, accelerato dall'urbanizzazione, dal consumo di suolo, dall'industria mineraria, poi l'incremento globale dei viaggi, i cambiamenti nella filiera alimentare e infine il cambiamento climatico. Uno degli esperti, autore del rapporto, Thomas Gillespie, dice che i rischi principali per un futuro spillover di malattie zoonotiche sono la deforestazione degli ambienti tropicali e l'allevamento su scala industriale e ad alta densità, in particolare di maiali e di polli. Siamo a un punto di crisi, dice Gillespie. Se non cambiamo radicalmente il nostro atteggiamento nei confronti della natura, andrà molto, molto peggio. Ciò che stiamo vivendo ora sembrerà una cosa leggera in confronto. La LAV, Lega Antivivisezione, la principale associazione animalista italiana, ha ripreso e divulgato il rapporto, chiedendosi se i decisori politici vorranno seguire le indicazioni degli scienziati. È una domanda retorica. La risposta al momento è onestamente no. La LAV, da parte sua, rilancia il proprio manifesto non come prima, teso a spingere verso una nuova normalità che tenga conto di quanto avvenuto. La LAV, insomma, invita a fare pressione sull'opinione pubblica e sui decisori per ridimensionare al massimo, dice l'associazione in un suo comunicato, il superpotere distruttivo e rischioso del settore zootecnico e favorendo, con l'orientamento verso le proteine vegetali, un nuovo modello alimentare mondiale molto meno rischioso. Ci uniamo a questo invito della LAV e ribadiamo un concetto sul quale insistiamo sempre. Una relazione nuova con gli altri animali è necessaria e implica un cambiamento radicale dei consumi, dell'economia, quindi delle nostre società. Una trasformazione del genere, secondo noi, è possibile, ma deve passare attraverso scelte collettive, cioè attraverso la mobilitazione civile e l'impegno politico di base. Non ci sono scorciatoie. Nella scorsa puntata abbiamo parlato di orsi trentini, in particolare di Papillon, M49, il prigioniero evaso per la seconda volta, e dell'orsa che avrebbe aggredito due cacciatori nel bosco. Ebbene, quest'orsa è effettivamente JJ4, lo dimostrano le analisi compiute sul DNA. L'orsa è madre di tre cuccioli e quindi prende ulteriore valore l'ipotesi che abbia agito contro i due escursionisti, usciti in quel momento dal sentiero, per difendere i suoi piccoli, senza avere un'indole aggressiva. La sua, ha commentato Massimo Vitturi, responsabile dell'area selvatici della LAV, è stata una reazione del tutto normale. Ora la LAV auspica che il TAR di Trento, dopo avere sospeso la delibera provinciale di abbattimento dell'orsa, l'annulli definitivamente nell'udienza fissata per il 22 ottobre. Anche il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha commentato la vicenda. Non è stata un'aggressione per far male, ha detto, ma un'aggressione di chi vuole difendere la propria prole. Non dimentichiamo che è un'orsa di 14 anni e che è conosciuta come un'orsa timida. Lasciamoli vivere bene questi animali, facciamogli fare gli orsi, ha detto ancora il ministro. pesci subtropicali nelle acque del Massachusetts, altre specie marine che arrivano sulle coste del Nord Atlantico e si trovano bene, arrivando a stabilirvisi. Gli habitat si trasformano perché gli oceani si stanno surriscaldando. Il Washington Post nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme, denunciando le alterazioni delle correnti marine e le profonde modifiche degli ecosistemi. Le trasformazioni in corso avranno effetti anche sugli uragani e su quelle tempeste che non a caso sono chiamate tropicali, ma che d'ora in poi non saranno più solo tropicali. Il numero degli uragani sulla East Coast americana sta aumentando e da giugno si registra un costante avanzare di queste verso nord, con probabilità sempre più alta di fenomeni ad altissima intensità distruttiva. Un'altra immagine dello stesso fenomeno ci arriva dall'Australia, con l'insolito avvistamento dalla spiaggia di Manly, a nord di Sydney, di un cucciolo di megattera con la madre, a pochi metri da bagnanti e surfisti. Solitamente le megattere australiane migrano a nord, dall'Antartide verso le acque tropicali del Queensland, tra aprile e luglio, e tornano verso sud con i cuccioli in autunno inoltrato. Le nuove condizioni degli oceani evidentemente hanno cambiato le loro abitudini. Insomma, anche vista dai mari, l'emergenza climatica è sempre più grave e non possiamo permettere che sia ignorata o sottovalutata. Una piccola buona notizia dall'Antartide, dove sono state scoperte 11 colonie di pinguini imperatore, grazie ai satelliti europei del programma Copernicus, gestito dall'Agenzia Spaziale Europea. Delle 11 nuove colonie, 3 erano già state individuate, ma mai confermate finora. Le altre sono del tutto nuove. La scoperta porta a un totale di 61 il numero di colonie censite nel continente antartico. Secondo gli autori dello studio, coordinati dal geografo Peter Fritwell, esistono in Antartide il 20% in più di colonie di pinguini imperatore rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Si tratta di una scoperta eccitante, ha commentato Fritwell. Le nuove colonie, ha aggiunto, sono però piuttosto piccole, così aumentano solo del 5-10% la popolazione complessiva dei pinguini imperatore, portandola a un totale di poco più di 500.000 di esemplari. L'estate è per tradizione tempo di letture, perciò abbiamo pensato, per tutto il mese di agosto, di riproporre alcune nostre recensioni di altrettanti classici, definiamoli così, utili a definire un approccio aperto e informato alla questione animale. Oggi vi proponiamo un libro di Frank Westerman, grande giornalista, autore di libri di reportage, di approfondimento storico di grande qualità. Pura razza bianca è un volume che si presta a diverse chiavi di lettura, non ultima la messa in luce dell'eccessiva benevolenza diffusa verso la selezione razziale in ambito animale, una pratica socialmente accettata, ma non per questo giusta, tutt'altro. Il servizio che state per ascoltare è di Fabio, dei Troglodita Tribe. Pura razza bianca è un libro sui cavalli lipizzani, meglio conosciuti come i cavalli danzanti, scritto da un giornalista di guerra, non certo un animalista, che non si limita a descrivere gli infiniti maltrattamenti, principalmente di tipo genetico, che sono stati perpetrati nei loro confronti. In effetti, in quasi 400 pagine, sono pochissime le righe che fanno riferimento al duro e cruento addestramento da loro subito. Per intenderci, i cavalli lipizzani, così chiamati perché nascono a Lipizza, città oggi in Slovenia, sono quelli che nascono neri e dopo 8-9 anni diventano completamente bianchi. Si muovono, durante le parate, con estrema leggerezza e regalità in una danza totalmente diretta dal cavaliere. Più che cavalli, sembrano macchine robotizzate e telecomandate. Sono i cavalli che compiono la tipica impennata controllata, il classico movimento con cui il generale trionfante si presentava davanti al sovrano, la classica posa per i quadri celebrativi e i monumenti equestri. Sono i cavalli che rappresentano l'ideale di purezza e perfezione e sono stati voluti e cavalcati nel corso della storia da imperatori, dittatori, ministri, presidenti, regine e cancellieri. Il risultato di selezioni e accoppiamenti di tutti i migliori cavalli nel corso della storia, dalla Danimarca all'Egitto. Forti, regali, puri, un cavallo per pochi, simbolo della nobiltà di sangue. L'autore compie un affascinante viaggio storico che parte dal primo allevamento imperiale degli Asburgo del 1580 e, attraverso incroci, manipolazioni, eugenetica, guerre e spartizioni dei territori, arriva a disegnare un paesaggio che ricorda, in uno strano parallelismo, la delirante ricerca di una razza ariana che determinerà i periodi più bui della storia. Non è un caso, infatti, che il lipizzano puro sangue poteva dirsi tale solo se i genitori discendevano da almeno 5 generazioni di lipizzani puri, proprio come il certificato di arianità che pretendeva 5 generazioni ariane per ottenere l'ammissione nelle SS. La stessa spinta a migliorare la razza attraverso la selezione e l'esclusione, attraverso l'eliminazione fisica degli imperfetti, dei poveri, dei jedi, minorati, degli zingari. Dopo ogni guerra e relative spartizioni si determinavano i nuovi confini e anche questi cavalli venivano ridistribuiti nelle nuove nazioni. Venivano considerati, infatti, materiale riproduttivo pregiato e salvati più che altro per questo motivo. Anche in tempi più recenti, durante la guerra della ex Jugoslavia, si sono mobilitati vari esponenti politici, ma anche dello spettacolo, per salvare i cavalli lipizzani, ormai decimati dalla fame e dalle bombe. Il libro è anche un lungo excursus scientifico sulla storia delle manipolazioni, sulle tecniche usate per dar voce e corpo al desiderio di creare, di modificare, di allineare il vivente alle necessità e agli ideali dei pochi potenti che dirigevano e dirigono le sorti del mondo. Perché partendo dai dibattiti suscitati da Darwin e Mendel, l'autore arriva a mostrarci come oggi siano gli algoritmi a determinare l'accoppiamento più adatto dei lipizzani e di come, attraverso la clonazione, sia sempre più frequente riprodurre le perfette fotocopie degli esemplari migliori. Un'avventura affascinante e drammatica al tempo stesso, che penetra anche nell'immaginario popolare attraverso un film degli anni 60 di Walt Disney, L'ultimo treno da Vienna. Si racconta l'operazione segreta e non autorizzata compiuta sul finire della Seconda Guerra Mondiale nel 1945. Il generale americano Patton, infatti, dopo aver visto uno spettacolo di questi cavalli danzanti, volle salvarli a tutti i costi dall'arrivo dei russi che, a quanto si diceva, ne avrebbero fatto scempio. Quindi un'intensa riflessione sui più sottili processi di dominio e maltrattamento che, ben lungi dall'essere perpetrati esclusivamente sugli animali, dovrebbero spingerci ad ampliare gli orizzonti di un animalismo superficiale e che potrebbero essere uno stimolo ad aprire nuovi fronti di resistenza sullo scenario scientifico, là dove i giochi del potere stanno creando la sottomissione del domani. Pura razza bianca di Frank Westerman, Iperborea Edizioni, pagine 384 euro 17. It's 1 o'clock and time for lunch. Bum de dum de dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, we got to tidy your room now. Mr. Lewis, it's at the time that he was out on his own. Over the garden wall, two little lovers, cuckoo to you. Keep them mowing blades sharp. I know what I love, and I love what I love. Getting better. I'm just a lawnmower. You can tell me by the way I walk. La vicenda dei cavalli lipizzani è dedicata alla ricetta della settimana del nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni per il suo spazio etico gastronomico Il Pasto Gentile. Gabriele è autore del libro Cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Compton. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. Cavalli lipizzani, i preferiti dell'imperatore Francesco Giuseppe. Bene. E noi, per un imperatore austriaco, abbiamo una ricettina doc, quella del Kaiserschmarrn, ovvero la frittata dolce dell'imperatore. Un semplice e gustoso dessert austriaco, per l'appunto. Ecco la nostra versione 100% vegetale. Gli ingredienti per 4 persone per il Kaiserschmarrn sono 100 g di farina di ceci, 150 ml di acqua fava, 200 g di latte di soia, 50 ml di rum, 50 g di zucchero di canna, 250 g di farina tipo 0, un pizzico di sale, 4 cucchiai di confettura di mirtilli rossi, 20 g di uvetta, 20 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di curcuma in polvere e dello zucchero a velo per guarnire. Mettete a mollo l'uvetta nel rum e lasciatela riposare. Nel frattempo mescolate la farina di ceci con la farina zero e stemperatele con il latte di soia. Aggiungete lo zucchero di canna, la curcuma, 10 ml di olio di semi di girasole, il sale e poi l'uvetta con tutto il rum. Impastate bene e lasciate riposare. A parte montate l'acqua fava a neve ferma e successivamente incorporatela delicatamente all'impasto. Fate cuocere in una padella con un goccio di olio, realizzando delle frittelle che farete dorare su entrambi i lati a fuoco lento. Lasciatele intiepidire e tagliate le frittelle a strisce piuttosto larghe. Distribuitele nei piatti, spolverate con lo zucchero a velo e guarnite con la confettura di mirtilli. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration, slip away, 'cause your baby is so far away. And there's a road in the distant dark, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. And come on, love the one you're with. Everybody just love the one you're with. And you got to love the one you're with. Don't be sad, don't sit quiet over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting for something to do. And there's a road in the distant dark. Per questa settimana è tutto, vi saluta l'intera redazione di Restiamo Animali, composta da Francesca De Matteis, Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Giuseppe Coco, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Gabriele Pallone e dal sottoscritto Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.